Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Appena solo, Federico si recò dal famoso Pomader, dove ordinò 3 paia di calzoni, 2 abiti, 1 pelliccia e 5 panciotti. Poi da un calzolaio, da un camiciaio e da un cappellaio, a tutti lasciando detto che facessero il più in fretta possibile. 3 giorni dopo, tornando verso sera dalle Havre, trovò a casa il guardaroba al completo. Impaziente d'usarlo, decise di fare senza indugio una visita ad Ambrese. Ma erano solo 8:00, un po' troppo presto. Se andassi dagli altri, gli venne in mente. Arnoux, solo davanti allo specchio, si stava facendo la barba. Propose a Federico di portarlo in un posto dove c'era da divertirsi. Sentito il nome di D'Ambrese, aggiunse: «Magnifica combinazione! Ci saranno appunto degli amici suoi! Venga, vedrà che spasso!» Federico accampava scuse. Madame Arnoux, riconoscendo la voce, gli disse buonasera da dietro la parete. Sua figlia era indisposta e lei stessa non stava bene. E difatti si sentiva il rumore di un cucchiaio dentro un bicchiere e tutto un fremere di cose spostate con dolcezza, come sempre, nella casa di un malato. Poi Arnoux scomparve per andare da sua moglie a salutarla. L'udì che accumulava ragioni. «Lo sai che è una faccenda seria, bisogna che ci vada, no? È necessario, mi stanno aspettando. Vacci, caro, buon divertimento!» Arnoux diede la voce a un fiacre. «Palais Royal, Galleria Montpensier, 7!» E abbandonandosi sui cuscini... «Che stanchezza, amico mio! Sono mezzo morto! Del resto, a lei lo posso dire!» Si chinò verso il suo orecchio misteriosamente. «Sto cercando il segreto del rosso rame dei cinesi!» E gli spiegò cosa fossero lo smalto e la verniciatura a fuoco lento. Arrivato da Chevet, ritirò un grande cesto di fiori che fece caricare sul fiacre. Poi scelse, per sua moglie, poverina, dell'uva, alcuni ananas e diverse altre specialità gastronomiche, raccomandando che le portassero il giorno dopo di buon'ora. Via di lì andarono da un costumista. Si trattava di un ballo, infatti. Arnoux prese dei calzoni al ginocchio di velluto blu, una giacca dello stesso colore e una parrucca rossa. Federico un domino. E scesero per Rue de Laval sino a una casa illuminata all'altezza del secondo piano da lanterne colorate. Ai piedi della scala si sentivano già i violini. «Dove diavolo mi stai portando?» disse Federico. «Niente paura, è una bravissima ragazza!» Un valletto venne ad aprire e i due entrarono nell'anticamera dove i cappotti, scialli e mantelli erano ammucchiati su alcune sedie. Una giovane donna in costume da dragone l'attraversava proprio in quel momento. Era la signorina Rosanette Braun, padrona di casa. «Allora?» disse Arnoux. «È fatto», lei rispose. «Grazie, angelo mio!» e fece per baciarla. «Sta un po' attento, imbecille, mi vuoi sciupare il trucco?» Arnoux le presentò Federico. «Si infili là dentro, signore, e si consideri il benvenuto!» Scostò una tenda che stava alle sue spalle e si mise a gridare con enfasi. «Messer Arnoux, marmittone!» «È un principe, suo amico!» A tutta prima Federico restò abbagliato dalle luci. Non riusciva a scorgere che seta e velluto, spalle nude, una massa di colori ondeggiante ai ritmi di un'orchestrina immersa tra la verzura. Le pareti, rivestite di seta gialla, avevano qua e là ritratti a pastello e torcere di cristallo in stile Luigi XVI. Le danze si interruppero, vi furono degli applausi e un rumoroso movimento d'allegria alla vista di Arnoux che veniva avanti col suo paniere in testa, ingobbito nel mezzo delle vettovaglie. «Occhio al lampadario!» Federico, alzando gli occhi, riconobbe il vecchio lampadario che ornava la bottega dell'Art Industriel e il ricordo dei giorni andati gli attraversò la memoria. Ma un fantaccino in basso uniforme, con l'aria stupidotta che la tradizione assegna ai coscritti, gli si parò davanti, spalancando le braccia in segno di stupore. E Federico, a dispetto dei terribili mustacchi neri ultra appuntiti che lo sfiguravano, riconobbe il suo vecchio amico Isonnet. In un gergo, per metà negro e per metà alsaziano, l'artista lo colmò di felicitazioni, chiamandolo «mio colonnello». Federico, scombussolato da tutta quella gente, non sapeva cosa rispondere. Poi, a un colpo d'archetto sul leggio, ballerini e ballerine presero nuovamente posto. saranno stati una sessantina, le donne vestite per lo più da villanella o da marchesa e gli uomini, tutti di età matura, in costume di carrettiere, scaricatore o marinaio. Ritiratosi contro il muro, Federico si mise ad osservare davanti a sé la quadriglia. Nel guardare quella gente, Federico provava un senso d'abbandono, quasi di malessere. Pensava ancora a Madame Arnoux e gli sembrava di partecipare a qualcosa che le fosse ostile, che si tramasse contro di lei. Al termine della quadriglia, Rosanette gli venne vicino. Ansimava un poco e la gorgiera, lustra come uno specchio, si sollevava appena sotto il suo mento. «E lei, signore?» gli disse. «Non le va di ballare?» Federico, scusandosi, rispose che non sapeva ballare. «Ma davvero? E neanche con me? Ne è proprio sicuro?» E bilanciandosi su una gamba, l'altro ginocchio tenuto un po' indietro, la mano sinistra carezzevolmente chiusa sull'impugnatura di madreperla della spada, rimase a sogguardarlo per un minuto con un'aria tra supplichevole e sfottente. Dopodiché disse «Buonasera», fece una piroetta e scomparve. Federico, scontento di sé e incerto sul da farsi, si mise a girare per la festa. Era proprio un ambiente fatto per la gioia. Con un brusco, giovanile moto di rivolta, Federico giurò a se stesso che ne avrebbe tratto piacere. Ritrovò di colpo il coraggio. Poi, tornato all'ingresso della sala dove c'era adesso anche più gente e tutto s'agitava in una sorta di luminoso polverio, stette fermo in piedi a contemplare la quadriglia, strizzando gli occhi per vedere meglio e fiutando i teneri odori femminili che giravano nell'aria come un immenso bacio sparpagliato. Ma ecco che vicino a lui, dall'altro lato della porta, c'era Pellerin. Pellerin in alta tenuta, col braccio sinistro ficcato nel panciotto e nella destra, insieme al cappello, un guanto bianco lacerato. Fra una quadriglia e l'altra, Rosanette si diresse verso il camino, accanto al quale s'era installato in poltrona un vecchietto ben in carne, vestito di marrone coi bottoni d'oro. I suoi capelli ancora biondi e naturalmente ricci come il pelo di un can barbone contrastavano in modo bizzarro con le guance, vizze, cascanti sul cravattone bianco e gli davano un'aria un po' pazzerellona. Chinandosi verso di lui, Rosanette stette ad ascoltarlo. Poi gli porse un bicchiere di sciroppo e niente era più grazioso a vedersi delle sue mani fra i polsini di pizzo che spuntavano dalle maniche della sua giacca verde. Bevuto che ebbe, il bravo uomo gliela baciò. «Ma è Audry, il vicino di Arnaud!» «È lui che l'ha rovinato», disse Pellerin ridendo. Alle ultime note del valzer fece la sua comparsa la signorina Vatnaz. Aveva un fazzoletto algerino sulla testa, una quantità di piastre d'argento sulla fronte, del blu d'antimonio intorno agli occhi e indossava una specie di soprabito di cashmere nero sopra una gonna chiara a lamelle d'argento. Reggeva con la mano un tamburello basco. Dietro di lei avanzava un giovanotto alto che vestiva il classico costume di Dante ed era, la signorina ormai aveva smesso di tener segreta la cosa, un cantante della Lambra che, chiamandosi in effetti Auguste de la Mar, aveva assunto inizialmente il nome di Antenor de la Mar e successivamente quelli di Delmas, di Belmar e infine di Delmar, modifiche e perfezionamenti che avevano via via accompagnato il crescere della sua gloria, giacché nel frattempo aveva lasciato le balere per il teatro e da ultimo, anzi, aveva debuttato con gran chiasso al teatro Ambigu in Gaspardo il pescatore. La Vatnaz, terminati i suoi lunghi abbracci con Rosanette, s'accostò a Isonné per pregarlo di rivedere dal lato stilistico un'opera educativa che aveva intenzione di pubblicare, La Ghirlanda delle Fanciulle, brani di letteratura e di morale. Il letterato promise ad aiutarla. Allora la signorina gli chiese se non avrebbe potuto far fare sui giornali nei quali era introdotto un po' di buona stampa al suo amico e magari in seguito fargli avere una parte. Isonné finì col non accorgersi che gli stavano offrendo del punch. Era Arnoux che l'aveva preparato e, seguito dal valletto del conte che reggeva un vassoio vuoto, lo offriva in giro con molta fierezza. Quando capitò passando davanti a Audry, fu fermato da Rosanette. «E allora, per quella faccenda?» Arnoux si fece un po' rosso, poi rivolgendosi al vecchietto, «La nostra amica mi diceva che sarebbe così gentile. Oh, come no, caro vicino, sono a sua disposizione». E venne fuori il nome di D'Ambreuse. Dato che parlavano a bassa voce, Federico li sentiva confusamente. Si diresse allora verso l'altro angolo del camino, dove Rosanette e Delmar stavano chiacchierando. Il guitto aveva un aspetto volgare che guadagnava, come gli scenari, a essere contemplato a distanza. Mani tozze, piedi grandi, la mascella pesante, denigrava gli attori più illustri, trattava gli autori dall'alto in basso, parlava di sé dicendo «la mia voce, il mio fisico, i miei mezzi», e infiorava i suoi discorsi con parole a lui stesso poco intellegibili e che pareva prediligere come morbidezza, analogo, omogeneità. Rosannetta, ascoltando, faceva con la testa dei piccoli cenni di approvazione. L'ammirazione si spandeva visibilmente sulle sue guance al di sotto del trucco e qualcosa di umido, simile a un velo, le passava negli occhi, che aveva di un colore chiaro e indefinibile. Com'era possibile che un uomo simile l'affascinasse? Federico avrebbe voluto disprezzarlo ancora di più, forse per vincere quella specie di invidia che sentiva di portargli. La Vatnaz adesso era con Arnoux e, senza interrompere le sue sonore risate, gettava di tanto in tanto un'occhiata alla sua amica, che anche il signor Oudry non perdeva di vista. Poi Arnoux e la Vatnaz scomparvero. Il vecchietto si avvicinò a Rosanette e le parlò sottovoce. «Ma sì, sì! Siamo d'accordo, mi lasci in pace!» E pregò Federico di andare a vedere se Arnoux fosse in cucina. Le danze si erano interrotte. Le dame avevano ripreso posto sulle panche, gli uomini passeggiavano. In mezzo alla sala, la tenda di una finestra sbatteva gonfiandosi al vento e una donna, mascherata da sfinge, contro il parere di tutti, esponeva alla corrente le sue braccia imperlate di sudore. «Ma dov'era Rosanette?» Federico si spinse per cercarla fino al boudoir e in camera da letto. Entrando nella serra, vide sotto le larghe foglie di un caladium presso lo zampillo Delmar disteso bocconi sul divano. Rosanette, seduta accanto a lui, gli passava una mano tra i capelli e i loro sguardi si incrociavano. Nello stesso momento, dall'altra parte, quella della voliera, entrava Arnoux. Delmar fu in piedi con un salto, poi uscì senza voltarsi con un passo tranquillo. Anzi, all'altezza della porta si fermò per cogliere un fiore di ibisco e metterselo all'occhiello. Rosanette abbassò la testa. Federico, che la vedeva di profilo, s'accorse che stava piangendo. «Toh, ma che cos'hai?» disse Arnoux. Lei alzò le spalle senza rispondere. «È per causa sua?» insistette. Lei gli allungò le braccia intorno al collo, lo baciò sulla fronte e lentamente «Lo sai che t'amerò sempre, o macione mio, non pensiamoci più, andiamo a cena». Il Sonné, intanto, accoccolato ai piedi di una donna vestita da selvaggia, faceva l'imitazione dell'attore Grasso, sbraitando con voce roca «Oh, non essere crudele!» «Incantevole questa festicciola in famiglia, inebriatemi di voluttà, o miei amori, folleggiamo, folleggiamo!» E si mise a baciare le signore sulla spalla, punzecchiandole con i mustacchi e facendole trasalire. Poi ebbe l'idea di rompersi un piatto sulla testa con un urto leggero. Ci fu chi volle imitarlo. Pezzi di porcellana volavano come tegole strappate da un uragano. E qualcuno disse forte «Non preoccupatevi, non costa niente!» «Il borghese che li fabbrica ce li fornisce graziosamente!» Tutti gli occhi si spostarono su Arnoux, il quale rispose «Pagamento in contanti, tengo a precisare!» per far capire, evidentemente, che non era, o non era più, l'amante di Rosanette. Thank you. Due voci furiose si levarono. «Imbecille! Barbone! A sua disposizione! Alla sua!» Erano un cavaliere medievale e un postiglione russo che si era messi a litigare. «Signori, mi ascoltino, prego! Una parola! Ho esperienza di queste cose! Signori!» Rosanette, facendo risuonare un bicchiere col coltello, finì per ottenere il silenzio e, rivolgendosi al cavaliere, che stava con l'elmo in testa, poi al postiglione sormontato da un berretto di pelliccia, «prima di tutto si levi la casseruola, fa caldo solo a vederla, e quell'altro, lei, la sua scopa. Per la miseria, dovrete obbedirmi, sapete? Guardate un po' le mie spalline, sono la vostra marescialla io!» Fecero come diceva e tutti si misero ad applaudire e a vociare «Viva la marescialla! Viva la marescialla!» La luce piena del giorno entrò con la freschezza del mattino. Vi fu un'esclamazione di stupore e poi silenzio. Le fiamme oscillavano giallastre, facendo crepare di tanto in tanto i piattelli dei candelabri. Nastri, fiori e perle erano sparsi sul pavimento. Macchie di punch e di sciroppo deturpavano il piano delle console. Le tappezzerie erano sudice, i costumi gualciti e polverosi. Trecce disfatte pendevano sulle spalle e il trucco, scivolando via in rivoli col sudore, scopriva facce livide dalle palpebre arrossate e tremanti. Finalmente, arrivate le vetture, gli invitati sfollarono. Arnoux e Federico andarono via insieme come eran venuti. Il mercante di ceramiche aveva una faccia talmente scura che il suo compagno lo credette indisposto. «Io? Niente affatto!» Si mangiava i mustacchi, aggrottava le sopracciglia e Federico provò a chiedergli questa volta se avesse qualche preoccupazione per il suo lavoro. «No, assolutamente!» Poi di punto in bianco: «Lo conosceva già, non è vero, il vecchio Audry?» E con evidente rancore: «È ricco, quel furfante!» Si mise a parlare in seguito di una cottura importante che facevano in fabbrica e doveva essere finita in giornata. Aveva deciso di assistervi. Il treno partiva fra un'ora, ma prima bisogna che vada ad abbracciare mia moglie. «Sua moglie», pensò Federico. Si ficcò a letto con un insopportabile male alla nuca e per placare la sete beve un'intera caraffa d'acqua. Gli era venuta un'altra sete, quella delle donne, del lusso, di tutto ciò che la vita a Parigi porta con sé. Si sentiva un po' stordito, come uno che scende da una nave, e nell'allucinazione del primo sonno vedeva passare e ripassare di continuo le spalle della marescialla, le reni della sfinge, i polpacci della polacca e i capelli della selvaggia. Poi gli apparvero due grandi occhi neri, che non avevano niente a che fare col ballo, e leggeri come farfalle, ardenti come torce, andavano e venivano, vibrando e salendo quasi al soffitto per ridiscendere fino alla sua bocca. Federico s'accaniva a volerli riconoscere, quegli occhi, ma non ci riusciva. Ma ormai il sogno si era impadronito di lui. Gli sembrava d'essere attaccato al timone di un fiacre in pariglia con Arnoux e che la marescialla gli stesse sopra a cavalcioni e lo sventrasse coi suoi speroni d'oro.